Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come sempre vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog Guardie o Ladri. Attraverso un motore di ricerca lo trovate molto facilmente e troverete su questo blog articoli che trattano temi di legalità, illegalità e criminalità organizzata. Tema che stiamo affrontando da ieri, dopo che abbiamo scoperto, visto che la stampa locale campana se ne è occupata moltissimo, che c'è un regista che si chiama Enzo Acri, che sta girando, ha praticamente ultimato, le riprese di un film che si chiama Un camorrista per bene. Tra l'altro gli attori sono stati selezionati e scelti attraverso Facebook. Bene, ripartiamo da dove ieri ci siamo fermati, con l'intervista ad Enzo Acri, e poi sentiremo anche Luciano Brancaccio, che è un professore universitario esperto in queste materie. Mi scusi Acri, ma io e lei non ci conosciamo, no? È la prima volta che mi sente, sono una persona che parla estremamente schietto, anche perché ha una certa abitudine a trattare di questi temi. Ma lei perché lo ha fatto questo film? Perché conosce dei camorristi buoni, quelli di una volta che magari tenevano il paese pulito, non facevano smerciare la droga, e a lei quel tipo di camorrista piace? Cioè magari era il sogno della sua vita diventare un camorrista per bene, oppure perché veramente vuole mandare un messaggio di legalità? Come pensa che sarà preso dai napoletani un film del genere? Ma non solo dai napoletani, ma anche dalla gente del nord, insomma, da tutti gli italiani, voglio dire. Allora, sicuramente sarà preso bene, perché 90 minuti di film circa hanno un tenore, diciamo, di camorra all'interno del film, di omicidi. Forse vediamo più sangue di altri film di camorra, ma avrà un finale molto Woody Allen, che spiegherà tutto quello che hanno visto, cosa significa e cosa è buona e cosa non è buona. Ho capito. Cioè, anche se io racconterò, se io voglio far vedere qual è il male a un bambino, prima gli faccio vedere qual è il male e poi gli spiego che non si fa. Ho capito. E la stessa cosa è questo discorso, è il discorso di questo film. Ecco, una cosa, Acri, lei di professione fa il regista? Sì. Ecco, quali altre pellicole ha girato nel passato, così almeno si fa conoscere anche dai nostri radioascoltatori? Un gioco, ma i miei ultimi due film, prima di questo, che sono distribuiti dalla Millennium Storm, oggi sono in un video, si chiamavano L'Ispettore Lucarelli e L'Ispettore Lucarelli Caso Internazionale, film brillanti, comici, dove raccontavo all'interno di questi film di un ispettore della polizia, vede, al contrario di quello che racconto oggi, dove faceva l'ispettore giusto perché prendeva uno stipendio e perché cioè, i tanti problemi messi in chiave comica che ha anche la polizia, ecco, perché anche ho capito. La polizia ha mille problemi. Ho capito, ecco, anche questo qui mi pare un messaggio francamente devastante, perché uno che fa il poliziotto soltanto per prendere uno stipendio, voglio dire, è sicuramente un messaggio lancinante, perché uno non indossa una divisa soltanto perché prende uno stipendio, almeno così non dovrebbe essere. Indossa una divisa perché crede in certi valori. Io rabbrividisco, e su questo ho scritto anche diversi post, sulle tante macchie purtroppo che oggi le forze dell'ordine hanno sulla propria divisa. Rabbrividisco quando mi sento dire ma con quello stipendio che si prende. No ragazzi, o si è onesti o non lo si è. Non è che con 1000 euro al mese si è onesti e con 5000 euro al mese non si è onesti. L'onestà è un valore, punto, è un principio dal quale non si può derogare. Questo almeno è come la penso io. Allora, Acri, io la ringrazio per la sua testimonianza. A questo punto io vorrei passare all'altro interlocutore. Ovviamente rimanga lì in Acri, che è Luciano Brancaccio. Chi è Luciano Brancaccio? È un professore universitario del Dipartimento di Sociologia dell'Università Federico II di Napoli, e in più è un collaboratore dell'Osservatorio sulla Camorra e sulle Illegalità, messa in piedi anche e soprattutto grazie al Corriere del Mezzogiorno. Colgo l'occasione per dire a Brancaccio: questo osservatorio fatelo molto più pungente, non andate sempre a ritirare le solite storie, altrimenti non serve a niente, glielo dico francamente Brancaccio. Questa non è un'accusa, non è una critica distruttiva, ma è una critica costruttiva. Detto questo, Brancaccio, mi corregga in quello che io ho detto di sbagliato nel vedere questo pellicolo in uscita come un ennesimo messaggio disgustoso nei confronti della cosiddetta camorra per bene. A lei la parola, Brancaccio. Buongiorno innanzitutto. No, sì, beh, più che dire che il messaggio è sbagliato, io direi che si basa su elementi falsi, nel senso che anche l'idea che ci sia stata nel passato una camorra più stabile, quindi che per quanto possa essere stata criminale, però in qualche modo agiva sulla base di codici di lealtà ed onore, mantenendo per esempio l'ordine, questa è un'idea destituita di ogni fondamento, non è mai esistita neanche nel passato. Il guappo, come siamo abituati a vederlo, secondo un certo cliché. Sì, è una cosa da melodramma, è una cosa da non è mai, assolutamente la basta, insomma. È sempre stata un sistema criminale efferato, che ha attraversato fasi di picchi di violenza secondo le guerre, le fasi storiche, ma non è mai stata, diciamo, il mantenimento dell'ordine, la tutela dell'ordine sul territorio. Lo è stata in seconda battuta per la necessità di mantenere dei traffici criminali, ma non ha mai svolto una funzione sociale positiva. Ecco. Sì, ma infatti come possa un clan svolgere una funzione sociale positiva è veramente raccapricciante. Continuiamo. Vorrei dire una cosa, mi sembra che, poi il film non l'ho visto, quindi non voglio dare valutazione, perché se fosse una costruzione artistica la Monty Python, paradossale, sarcastica, potrebbe anche avere un suo valore. Vedendo il trailer non mi sembra che sia così, però non posso dare un giudizio compiuto sull'opera perché non l'ho vista. Questo qui siamo d'accordo con lei. Io personalmente ritengo che anche fosse una cosa surreale la Monty Python, comunque sarebbe un'operazione da non condividere, perché ripeto, a me fanno rabbrividire tutti questi film, perché fanno parte di quell'allegoria dell'antimafia di parolaia e di facciata che non serve a nulla. Comunque, detto questo, Brancaccio, che cosa dovrebbe a suo giudizio contenere un'opera cinematografica per mandare un messaggio positivo? Ma posso dire un'altra cosa? Come no? Prego. Il regista mi sembrava che avesse un intento provocatorio, dicendo, contrapponendo o anzi equiparando, come dire, la politica al sistema camorristico, dicendo che è provocatorio nei confronti di una certa visione politica della società napoletana e della camorra. In realtà, guardate, questo è un cliché molto abusato, questo del camorrista per bene, non è una idea provocatoria. Sì, ma non è un'idea. E si basa tutta la filmografia di serie B degli anni 70, ricordate forse Mario Merola? E come no? Anche per certi versi la versione del potere che in questi anni ha circolato in città, la versione del potere istituzionale, che tanti danni ha prodotto dal punto di vista culturale della percezione del fenomeno. Io voglio soltanto ricordare che quando ci furono i funerali di Mario Merola nel novembre del 2006, il nostro sindaco ebbe la sfortunata idea di fare un'apologia della guapparia buona. Adesso non è che fosse un camorrista, intendiamo. No, assolutamente. Ma il messaggio che lanciava il sindaco, che potesse esserci una guapparia buona, quindi fare leva su un presunto orgoglio napoletano che si basa anche sulla illegalità, è un'idea devastante. Sì, ma è quello che... In questo film, credo, e io sono molto contrario, ma non è un film provocatorio, perché purtroppo questa è la versione del fenomeno veicolata innanzitutto dalle istituzioni locali in tutti questi anni. Sì, ma infatti è quello che stavo dicendo quando appunto descrivevo questo fenomeno come un fenomeno non nuovo. E se ne sono viste a decine questi film sul giustiziere, voglio dire, poi non parliamo, diciamo così, allargando il discorso anche alla filmografia americana, dove comunque uno a un certo punto si sveglia, si dà dei codici propri di legalità contro l'illegalità e finisce con l'essere lui stesso un criminale. Quindi l'idea è vecchia quanto il mondo. Però vorrei tornare da Acri per chiederle, ovviamente lei non convince noi non convinciamo lei, ai nostri radioascoltatori e futuri potenziali spettatori del suo film e giudizio. Ma Acri, vorrei terminare con lei dicendole, leggo che addirittura il suo camorrista per bene avrebbe anche come suo compagno di strada un brigatista. Insomma, voglio dire, abbiamo fatto bingo. Brigatista, un terrorista, certo. Abbiamo fatto bingo, Acri. Certo. Quindi allora, il problema di camorrista per bene verrà svelato solamente quando il film è pronto e la gente vedrà il finale di questo film. Tutto quello che avrete visto sarà diventato solo un gioco. Io non posso dire il finale di questo è film, giusto. Altrimenti mi gioco. È giusto. È giusto, è giusto. Ma le assicuro, poi ne potremo fare un'altra di intervista. Assolutamente sì. E lei mi darà ragione di tutto quello che avrà fatto vedere, ma quale sarà stato il finale di questo benissimo film. Allora, quindi attendiamo con curiosità l'uscita di questo film, un camorrista per bene, ne abbiamo parlato, io stesso avevo qualche titubanza all'inizio, però in realtà i temi vanno affrontati, perché mi sarebbe dispiaciuto, come dire, contribuire alla promozione di un'idea che non condivido, però sono un giornalista, quindi i temi vanno affrontati sempre. L'abbiamo fatto in queste due puntate con Enzo Agri, regista del film, e con Luciano Brancaccio, ricercatore universitario del Dipartimento di Sociologia dell'Università Federico II di Napoli. Ritorneremo su questo tema, quindi, quando il film sarà uscito. Ringrazio in regia Fabio Cantadori e in studio Antonella Migliaccio, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.